avait des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mais mûr plus que jamais. Vi do soltanto un numero su cui riflettere, sul quale non posso aggiungere altro. 100. Se esistesse una classifica di 100 persone nella quale potreste voi essere inclusi, che la partecipazione a questa orda di 100 persone vi causasse una irrefrenabile notte di felicità, cosa fareste per essere fra i 100? Chiudo la parentesi dei 100, non posso andare avanti, non posso dire oltre. Se mi sarà dato modo di spiegare meglio, vi dirò cosa significherà partecipare alla fantastica notte dei 100. E andiamo all'argomento di oggi. Noi molte volte ci siamo soffermati sulla vaghezza e la lussura di definire le categorie coatte. Non perché riteniamo la coattaggine una categoria dispregevole, anzi riteniamo che l'animo coatto sia la vera linfa vitale della nostra contemporaneità. Quando i coatti avranno finalmente, totalmente, radicalmente in mano anche le leve del potere, finalmente ci sarà la crescita, la rinascita che tanti si auspicano. Il coatto in realtà è il vero possessore delle chiavi della contemporaneità. Il coatto è ipertecnologico, il coatto usa con grande familiarità tutti gli strumenti che mette a sua disposizione il mondo moderno per vivere una vita migliore. Il coatto soprattutto non si pone scrupoli, il coatto guarda il mondo con lo sguardo rapace del barbaro conquistatore, quindi non fa parte più ormai di questa residua parte dell'umanità frustrata, abbattuta, scissa e improbabilmente indecisa su quello che deve fare, su chi è, sulle equazioni fondamentali del proprio esistere. Beh, questa mattina vi daremo una possibilità di classificare qual è la categoria della coattaggine che secondo voi trionferà, quella in cui vi ritenete di essere meglio collocati, quella in cui ambirete di collocare ogni vostra ambizione, quella che vi spaventa perché saprete prima o poi vi sopraffarrà. Beh, questa mattina la puntata è dedicata a due colossi della coattaggine, a due giganti dell'animo coatto che per generazioni e generazioni hanno riempito di poster le camerette, hanno riempito di immaginario tanti massacratori con il crick in mano, tanti cacciatori della domenica, tanti sportivi nella palestra dei palestrati sotto casa. Beh, questa mattina voi dovete decidere chi sia più coatto, Rocky o Rambo. Rocky, sei riuscito a resistere 15 round, come ti senti? Bene, bene. Quando hai messo al tappeto Apollo la seconda difesa, andiamo! Credivi di aver dato l'incontro alla seconda difesa? Signori, si è concluso così l'incontro tra il campione mondiale di pesi massimi e lo sfidante Rocky Balboa. Abbiamo assistito ad uno dei più grandi avvenimenti sportivi stasera, ad uno degli incontri più drammatici nella storia del pugilato. Adriana! Signore e signori, ho ricevuto in questo momento i cartellini dei giudici, vince ai punti, in 15 riprese, l'incontro valido per il campionato del mondo. Questo è l'uno dei due contendenti. Riflettete bene, Rocky Balboa era colui che rappresenta la forza vindice della volontà popolare di sconfiggere e vincere, colui che sfidò mille cimenti, colui si lasciò massacrare, colui che schizzò di sangue gli schermi del cinema e allo stesso tempo fece gioire soltanto per un po' di sangue dal naso persone che sentivano come lui. Beh, il secondo invece, il secondo è un pochino più complesso perché è legato a una vicenda più legata a eventi tristi, luttuosi, legati alla storia. Potevo ucciderli tutti, potevo uccidere anche te. In città sei tu la legge, qui sono io. Lascia perdere, lasciami stare o scatena una guerra che non te la sogni neppure. Lasciami stare. Quanti geometri, ragionieri si sono avventurati nella selva di un giardino pubblico con un tagliaunghie, volendo anche loro, come appunto John Rambo, sconfiggere le forze natura, sconfiggere chi li vessava, chi ingiustamente non riconosceva i loro meriti, con un calzino zozzo messo sulla fronte per cingersi i capelli untuosi e unti e dare segno di virile intraprendenza. Rocky o Rambo, chi vi sentite più vicini? Chi pensate nei vostri sogni più inimmaginabili di poter emulare? E quale avete visto rappresentato nelle più infingarde persone vi circondano come mito negativo? Rocky o Rambo? Giuseppe Sansonna, buongiorno. Buongiorno. Questa mattina ci siamo avventurati in un terreno che è abbastanza eterodosso rispetto alla nostra sfera di interessi, ma troviamo che sia antropologicamente interessante vedere come le nostre latitudini, a distanza di decenni, ancora rimangano immarcescibili imperiture queste due figure di eroi, Rocky e Rambo. Tu ti sei già fatto un'idea sulle differenze e sulle analogie? Nel 76, quando nacque il fenomeno Rocky, eravamo in piena mitopoiesi del coatto. Qui abbiamo sentito il finale in cui lui, che ridotto a quadro di Francis Bacon, un grumo di carne con gli occhi a capanna, la bocca storta, la Totò chiama Adriana, che è molto simile alla Pina Fantoziana, che è stata la sua ossessione in questo incontro che lui da dilettante è riuscito a vincere contro quello Apollo Creed, che era insomma il simbolo di Cassius Clay, ovvero del nero vincente. Qui c'è la riscossa del bianco che si inventa un mondo, un ring in cui vincere. Allora, Adriana dette speranza a molte cozze che anche per loro sarebbe stato un po' di carne e di muscolo valido, perché Adriana naturalmente nella selva di donne che poteva scegliere Rambo sceglie la più dimessa, la più grigia, la più tristanzuola. Altra nota che ti aggiungo, proprio di tipo di costume, nota di costume, ancora una fase in cui il coatto metteva la tutina di cotonella grigia un po' abbondante. Venne poi da lì a pochissimi anni l'uso coatto della tuta di acetato lucida, tipo quelle che metteva Drive-In D'Angelo, ad esempio, con le spalline imbottite, colori fluorescenti, e poi quel bellissimo acetato acrilico lucido che per anni divenne la divisa della domenica di ogni coatto. A Bari, per esempio, negli anni 90, quel tipo di tuta lucida era la divisa dei contrabbandieri. Faceva le scintille di notte, perché era pura plastica. Era la divisa dei contrabbandieri. Ma un altro uso coatto era quello di correre inalando i miasmi benefici da Ital Cider di Philadelphia, cioè lui corre in mezzo a questi fumi, che quando si vede la gente corre in mezzo al traffico tutt'oggi, è lì che si rimanda a quel mito. Quanta gente ho visto sulle scalinate del Foro Italico in mezzo allo Stadio dei Marmi correre e sudati la mattina per imitare Rambo. Ecco, già abbiamo i primi. Antonio, buongiorno. Rocky o Rambo? Buongiorno. Rocky o Rambo? Buongiorno. Rocky o Rambo? Io penso Rambo. Perché Rambo? Cioè, ci sono delle scene, delle frasi di Rambo mitiche, super trash. Parliamo in Rambo 2, ehi John, dove sei? Che veniamo a prenderti? Sono io che vengo a prenderti, e spara la radio, voglio dire, una delle... La dice a Murdoch, la dice al suo nemico Murdoch. Non ricordo adesso, oppure sì. Rambo 3, quando si estrae in Afghanistan, si estrae il proiettile dall'addome. Cioè. Quante estrazioni da spina di riccio di mare ho visto fare sulle spiagge italiane, imitando la stessa scena. Certo, insomma è un mito, voglio dire. Sicuramente Rocky ha la sua bella dose di quattaggine, ma Rambo è il più quattro di tutti. Sentiamo Massimiliano invece. Massimiliano. Massimiliano invece dice, data la premessa che il coatto è poi alla fine l'individuo più sociale di tutti, è Rocky. Perché Rocky, Rambo sì. Poi alla fine è una sociale, un'anima sola che combatte contro tutto il mondo. Ha ragione molto Massimiliano, perché in realtà il coatto deve invadere spazio fisico con le sue urla, con le sue automobili, con la sua famiglia, con i suoi miasmi. Quindi se tende a conquistare spazio, Rambo è antitetico. Lei trova però che Rocky abbia anche un valore, abbia lanciato per primo la moda del palestrato, della palestra, di tutta la liturgia che c'è attorno al culto del fisico? Sì, però poi ha ammesso di aver usato del doping per avere quei muscoli, quindi anche il lato malato del coatto, quello che va un po' alla deriva e si perde nelle droghe. Il coatto fa grande uso di ventresca, di pagliata, di queste sostanze psicotrope, quindi rientra nel modello, secondo me. Sì. Ma poi c'è l'iperrappresentazione del pugile, perché pugni come quelli ucciderebbero un cavallo in corsa, invece loro se ne sparano 400 a incontro, rimanendo vivi, anche addirittura lucidi, o più o meno, insomma. Andiamo avanti. Ma soprattutto non avrei fatto la palude del Caimano, perché tutti lo sanno quello che mi è successo in Rhodesia dentro quella palude. Tutti, pure i sassi. Ma fammi capire, che te è successo in Rhodesia? Che noi non sappiamo mai condottare. Un ponte italiano è alto 40 metri, va bene? Sotto una palude che faceva schifo, marrone, piena zeppa di baracuda, caimani, coccodrilli, piranhas, tutto, anaconde. A un certo punto arriva il momento di fare la scena. Il regista chiama attore americano, va bene? Arriva, monta sul ponte, dice oddio mi gira la testa, via se ne va. Dice chiamata la controfigura inglese, arriva la controfigura inglese, dice oddio mi viene i brividi e se ne va. Vede il regista che sbianca, disperato. Che fa? Dice aiutatemi, qualcuno ci si deve buttare. Io mo guardo, gli ho detto. No, ma va a battere il ciacca, va. A ricogliere quel giaccone a Rambo. Fammi finire, fammi. E aspetta un momento, che ti è successo di preciso? Sono curioso di sentire. Giuseppe Sansonna, vedi, la citazione va ben oltre le semplici due saghe di Rocky e Rambo, questo è Verdone, ma io ti aggiungo appunto al tuo carnet di immaginario anche Americano Facce Tarzan. Già Alberto Sordi rappresentava in Sei in Nuce alcuni elementi comuni a questi due grandi quattoni. Sì, l'America è sempre stato il bacino a cui attingiamo per crearci i nostri miti. Qui c'è Verdone che fa questo coatto malinconico, solitario, tutto sommato, anche c'è sempre quel grumo di malinconia. Lui si mette questa fascia in testa, fa il fotomontaggio nel poster in casa, cerca un ruolo come comparsa a Cinecittà nei film terribili degli anni Ottanta che scimmiottavano appunto Rambo, ma non viene preso perché ha la faccia da bambacione, è troppo buono, la sua bontà solitaria e malinconica emerge, trapela e non gli permette di fare il caratterista. Andiamo avanti, vedo alcuni sms, cita un ascoltatore, Rocco Siffredi, che secondo lui riassume in sé le caratteristiche di entrambi i personaggi, non so bene quali caratteristiche. Di Obice. Un altro sms che arriva adesso, credo che i primi due film di entrambe le serie siano i film cult interessanti. Gli ultimi due di entrambe le serie sono esempio della quattudine della società. Uno stallone vecchio, gonfio di anabolizzanti, truccato e liftato all'inverosimile, possa essere ottimo premier italiano per l'attuale momento storico. Ad uno gli anabolizzanti, all'altro il Viagra. Corsi e ricorsi di parallelismi storici. Gaetano, trova delle analogie con la contemporaneità rispetto a questi due grandi quatti, ma mi interrei più sulle caratteristiche del quatto che vengono lambite, esaltate o portate in primo piano a questi due film. Rocky o Rambo, 800240024. No, Rocky, non lo schiaffeggiare, colpisci, l'ho deciso. Andiamo, Rocky, coraggio. Più veloce, avanti, un altro scatto, avanti. Andiamo, su, fa come me, prendi il ritmo. Alessandro, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti, buongiorno. Vediamo allora, il tuo punto di vista. Io volevo fare una piccola precisazione per quanto riguarda il film di Rambo. Diciamo che Rambo 1, se non sbaglio, è stato fatto da un regista molto importante americano che è John Milius, se non mi sbaglio. No, è Ted Kotcheff. Ted Kotcheff, allora mi confondo. Comunque è la prima, è una storia dove si praticamente rivendica gli esclusi dalla società, nel senso è la rivolta degli esclusi a tutti i livelli come storia dalla società. Sì, c'è un fattore storico importante, tutti i veterani, esatto. La guerra del Vietnam, una volta tornati in patria, si sono resi conto che la guerra la combattevano soltanto loro, il resto dell'America anzi li trattava male, come facevano parte dell'elemento della contestazione rispetto a ogni forma appunto di vessazione e colonialismo. Loro che pensando di essere andati lì col sostegno alla loro patria sono trovati a essere dei reietti. È un filone molto vasto, però non ci sono sfumature, è granitico Stallone, a quello sguardo ottuso, è ottuso prima, anche in Rocky è suonato prima di prendere i pugni, cioè è una... Tra l'altro c'è una curiosità a proposito di Rambo, perché il romanzo First Blood fu opzionato, visto e letto da Thomas Millian anni prima, e voleva farne la storia, ma in Italia disse no, vabbè, Monnezza Rambo. Non avrà mai successo, questa è la stupidaggine, e lui riuscì a conservare questo nome Rambo, infatti in un film suo lui si chiama Rambo, sempre prima di Rambo di Stallone, e il giustiziere sfida la città di Lenzi, lui ha questo nome. Ma a parte questo, e quindi rispetto al cacciatore di Cimino ci sono molte meno sfumature, c'era la graniticità ottusa che si oppone sì, anche assolutamente privo di sfumature, la sua invincibilità che da solo riesce, non so, a un certo punto c'è un'apoteosi di fuoco e fiamme con un cerino Rambo mette KO un esercito. Se veramente Rambo fosse esistito, non avremmo avuto Afghanistan, non avremmo avuto una così lacerante situazione in vari scenari di guerra. Ma in realtà non è così, è l'irraggiungibile esempio di virilità belluina che vorrebbe rappresentare uno Stato e non ha. Marco, buongiorno. Eccomi. Secondo me è Rambo per un semplice per un semplice motivo, che è facilmente emulabile, cioè la coattaggine quando trova, cioè senza spazio, rischiare la galera e i rigori della legge, ecco. Ma neanche tanto quello, è proprio un discorso che è un sogno alla portata di tutti, mentre nessuno sogna di andare in guerra e di tornare come eroe e produrre azioni impossibili, l'opportunità, la chance di salire su un ring ad un coatto può apparire possibile e futuribile a chiunque. Però guarda, io mi metto un attimo nell'animo coatto, che in parte, come tutti gli esseri umani, incarno, anche se ognuno di noi lo rinnega. In Rambo il coatto ha questa sorta di illusione certezza, a seconda poi della gradualità dell'emulazione del modello filmico, di poter da solo, soltanto con la sua esplosiva forza fisica e capacità di non avere nessun limite, sconfiggere alcuni limiti sociali che in realtà lo tengono fuori. In realtà l'esercito organizzato, il ben pensantismo di coloro che volevano ridurre e riconsiderare anche l'importanza della guerra in Vietnam, e soprattutto i suoi ex superiori, dai quali è legato da una sorta di legame fisico subliminale, al quale non può naturalmente ribellarsi, è come un padre che gli dà degli ordini, è stato programmato per obbedire, però allo stesso tempo riesce ad andare contro questa legge. Quindi gli ufficiali che richiamano all'ordine Rambo in realtà sono gli inetti capuffici, gli inetti personaggi appartenenti al mondo della burocrazia, verso i quali il quarto vorrebbe rivoltarsi, vorrebbe dire spacco tutto. Giuseppe, sei d'accordo? Sì, perché c'è l'individualismo dell'eroe che appunto ha perso la guerra del Vietnam, grosso incubo collettivo dell'America, l'ha persa perché i poteri forti dall'alto dell'America non hanno appunto investito. Non gli hanno dato carta bianca. Non gli hanno dato carta bianca. È un tema ricorrente anche in Callaghan. C'è solo il diretto superiore di Rambo che lo capisce, che questa figura paterna che poi lo salverà. Beh, è il suo burattinaio, però sì. È colui che lo comanda. Sì, sì, poi c'è questo suo piange per la voce di Amendolo, questo agnellone che piange nel finale dopo aver devastato una città piagnucola con questa voce stridula, no? Coperto da questa coperta verde militare. Cioè, mi rendo conto, sto facendo un'eresia, ma c'è quasi un sospetto velato di relazione omosex fra i due. Più che un sospetto, via. Andiamo avanti. È finita, Johnny. È finita! Non è finito niente! Niente! Non è un interruttore che si spegne! Non era la mia guerra! Lei me l'ha chiesto, non gliel'ho chiesto io! E ho fatto quel che dovevo fare per vincerla, ma qualcuno ce l'ha impedito. E il giorno che torno a casa mia, trovo un branco di vermi all'aeroporto che mi insultano, mi sputano addosso, mi chiamano assassino e dicono che ho ammazzato vecchi e bambini. E chi sono per urlare contro di me, eh? Chi sono per chiamarmi assassino se non sanno neanche che cavolo stanno strillando? Sono brutti momenti per tutti, Rambo, ma è finita ormai. Per lei? Per me la vita da civile non esiste. In guerra c'è un codice d'onore. Io copro te e intanto tu copri me. Qui non c'è niente. Tu sei l'ultimo di un gruppo scelto. Mi scrive un ascoltatore come via SMS, dice: siete fuori strada, il coatto e chiacchiere, Rocky e Rambo sono fatti. Ma chiaramente stiamo portando a livello di metafora la nostra riflessione. Il discorso fatto in questo momento da Rambo potrebbe essere il discorso di un tifoso sulla curva dello stadio di fronte a quell'impazzimento generale che avviene nelle zone liminari di una tensione che è una guerra, che è una partita, un derby a Roma è una guerra, non ci prendiamo in giro. Esatto, a quella ovvietà da slogan, no? Qui non ci sono più le sfumature tenebrose di un Apocalypse Now, ma cioè, insomma, l'ovvietà, la semplicità, la banalità, se vogliamo. La semplificazione anche di essere una macchina da guerra, una macchina di distruzione. Quando on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Quegli incontri erano fasulli, e così Adrian. Non ho mai combattuto contro i migliori. Era tutto fatto in modo che io potessi conservare il titolo più a lungo di quanto avrei dovuto. Insomma, lo capisci cosa sto cercando di spiegarti? Sì, certo, ma anche tu devi capire che lui ti voleva bene e che era il suo lavoro quello di proteggerti. Tutta quella protezione non serve a niente. Serve solo a peggiorare le cose. Tu ti svegli dopo 10 anni credendo di essere un vincitore. Invece no, sei solo un perdente. E va bene, non avrei tenuto il titolo per tanto tempo. E con questo almeno sarebbe stato vero, Adrian. Ma non lo capisci, è stato vero. Niente è vero se tu non puoi credere in quello che sei. E in me stesso io non ci credo più, lo vuoi capire? E se un pugile non crede in se stesso, è finito, è chiuso, è andato. È invece non è così! Sì, che è così! Ma perché non vuoi dirmi la verità? Ma perché mi vuoi costringere a dirlo, Adrian? Vuoi sapere la verità? La verità è che non voglio perdere quello che ho. In principio non mi importava niente dei pericoli. Salivo sul ring, mi facevo pestare, non mi interessava. Ma adesso ci sei tu, c'è il bambino. 800 24 00 24. Stiamo convogliando il nostro pubblico sulla riflessione quale sia il maggior catalizzatore di animus coatto tra le due interpretazioni di Stallone e Bifronte, che poi è sempre la stessa faccia, Rocky e Rambo. Sono molteplici le risposte: chi si sente più coattamente vicino a Rambo, chi a Rocky, chi invece ci dice, come tanti altri ascoltatori che scrivono soprattutto via SMS, che nessuno dei due incarna il nostro vero coatto. Il nostro vero coatto è di un altro tipo di osservazione, punto di vista. Cioè il nostro target culturale è quello di Verdone, non è quello di rappresentare appunto questi due eroi americani. Vedo, come spesso succede, poi una forte latitanza di pubblico femminile. Non è un argomento da uomini, anzi è un argomento in cui le donne dovrebbero dare il loro tocco fatato. Quale tra le persone di non sublime tratto gentile siete circondate, trovate più rappresentato il tipo Rambo o il tipo Rocky? Quanto Rocky e Rambo rappresentano, perché per molte l'hanno rappresentato gli anni passati, un vero pregnante, potente, devastante, dilatante status di oggetto erotico? Sentiamo Adamo. Adamo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, dunque, è difficile. No, non è difficile assolutamente. Sembra strano, ma in realtà è Rocky. Rocky ha un'evoluzione intanto nella sua goffaggine. Rocky è, intanto nel primo Rocky è ciccio, sa la pancetta. Non sì. C'è niente da fare in confronto ad Apollo. Sì, ma lo sa perché, scusi, erano in quegli anni non si chiedeva un ventre, il ventre piatto, la tartaruga, è entrata alla fine degli anni 80, primi anni 90, si è cominciato a parlare di uomo fisicato in quella maniera. I tipi Apollo fisici aveva, cambiano. Apollo ce l'aveva già. Sì, no, ma no. Diciamo andava bene, negli anni in cui è uscito andava bene così, quello era il modello diciamo di vigoria maschile. Oggi lei deve vedere la prima puntata del Grande Fratello per capire quali sono i modelli maschili che oggi vanno di più. È così. Cambia molto, capisce? Cambia molto la struttura fisica portata a emblema della mascolinità. Poi andiamo avanti. Però c'è anche il movimento, il primo Rocky è un orangotango, è un gorilla, contro questo Apollo che balla sul ring all'inizio e dopo alla fine sono tutti e due, sono mezzi morti. Perché doveva essere rappresentare diciamo la scuola della strada, l'uomo del popolo, e l'altro è uno che aveva fatto una raffinatissima accademia di pugilato, Giuseppe Sanzona. L'altro era Cassius Clay, sono bello come il sole, sono forte come il toro, danzo, sono la bellezza, rispetto appunto all'italo americano, l'uomo della strada, che però riscatta il bianco, perché appunto punisce la hubris di Cassius Clay, di Apollo, e lo mette alle corde. E poi Rocky è sempre sfigato, ha sempre un problema che viene su. Nel secondo Rocky c'è sua moglie che sta male, quindi non si riesce a allenare, torna a fare l'incontro che è messo quasi peggio del primo. Nel terzo Rocky si sente, insomma, gli muore l'allenatore. Ma però questo risponderebbe più a quello che è la prassi quotidiana di ogni quattro, di ognuno di noi, avere ahimè un pesante fardello familiare che ci riporta alla realtà. Usciamo di casa, andiamo alla partita, al bar dello sport, andiamo lungo la strada con la nostra fiammante automobile o motocicletta velocissima, torniamo a casa, abbiamo la moglie, il minestrone, le vene varicose, i figli con il pannolone da cambiare, via dicendo. Infatti Rocky da questo punto di vista secondo me è coattissimo. Non scordiamoci che nel secondo Rocky, appena lui ha due lire, cosa prende? La macchina e il giubbotto. tipico del quarto. Veramente coattissimi lei, il top. Giuseppe, devi aggiungere qualcosa? No, poi è una saga longeva che va dagli anni 70 ai primi anni 2000, quindi c'è bisogno sempre di porlo di fronte a nuovi avversari con delle limitazioni che rendono questi avversari insuperabili. Appunto, dopo i primi due con Apollo, poi c'è Mr. T, che è l'ultra coatto, no? Che diventa il suo, la macchina invincibile, fino ad approdare poi a Ivan Drago, ma di questo parleremo dopo. Un ascoltatore mi scrive su un SMS, dice: al cinema proiettano Rambo, dopo una sequela interminabile di azioni inverosimili, Rambo salta da 100 metri e batte un elicottero con un sasso. La famosa scena dell'elicottero abbattuto a sassate. Dall'ultima fila comincia a dire: beh, questo non si può, dai. Si alza un 4 in una fila e dice: se può fa. Adamo, avanti. Adamo, non è caduto Marco. Sì, pronto? Marco, eccoci. Sì, buongiorno. Mi piacerebbe aver qualche signora al telefono che mi dica il suo punto di vista su questi discorsi da soli maschi, ma andiamo avanti. Marco, avanti. Purtroppo non la posso accontentare su questo, però volevo dire questo. Con un po' di pazienza e un taglierino potrebbe farlo, però andiamo avanti. Vabbè, insomma, rimandiamo, va, che è meglio. Sì. Ascolti, io devo dire questo, al di là poi del fatto che, come sempre accade quando ci sono i numeri 2, 3, 4, la situazione un pochettino si fa sempre più caricaturale e poi ci sconta anche, voglio dire, il personaggio, l'attore in questione che può avere o non avere l'espressività che ci si aspetterebbe. Però io credo che entrambi i film siano nati all'insegna di messaggi e di uno spirito senz'altro lontani anni luce da quello del coatto. Molti portano avanti questa teoria, che in realtà il coatto non abbia nulla a che fare, però sono stati dei miti coatti fantasmagorici, sia Rocky che Rambo. Beh, ma quelle sono state delle trasformazioni di quello che voleva essere il film e di quello che era l'intenzione di chi l'aveva fatto. Tante cose vengono trasformate e deformate, ma se parliamo di quel modello e di quel film di per sé, dobbiamo dire che non voleva avere nulla a che fare e non dovrebbe avere nulla a che fare con l'attuale immagine del coatto. Sì, ma se l'animus coatto li fa suoi, li interpreta e li incarna, evidentemente ci sono o delle analogie o dei punti ideali a cui tende il coatto. Ma Giuseppe, cosa pensi? No, soprattutto c'è lo sguardo ottuso di Stallone, il suo fisico palestrato, tutti i suoi ammennicoli, no? Cioè il coltello, la fascia, che sono tutti cliché che poi sono stati assorbiti facilmente, ma si presentavano già come tali. Quindi non è il contesto, diciamo, ma è il personaggio vero e proprio. Il personaggio che è stato costruito, che è stato voluto poi fortemente da Stallone, perché Rocky è stata una volontà di Stallone. Lui portò questa sceneggiatura che aveva scritto, ispirata a un fatto vero, a Chuck Wepner, che è questo dilettante pugile che ha fatto un bel incontro con Cassius Clay, perdendo, ma comunque reggendo. Però non lo volevano i produttori, i registi non lo volevano come attore, perché non gli piaceva la sua inespressività. Volevano Steve McQueen, sono fatto una rosa di nomi incredibile. Poi sarà la fortuna sua. La sua volontà ottusa, pervicace, è riuscita a imporsi e imporre nell'immaginario appunto lo sguardo vuoto, vitreo, che lui ha mantenuto nei decenni identico a se stesso. Ecco, ci dico una cosa però. Rambo è entrato nel lessico comune, non fare Rambo, si sente Rambo. Il Rocky non è entrato nel lessico comune, non fare Rocky, ma è sentito... Molti cani si chiamano Rocky, si usava molto negli anni 80 chiamare i cani Rocky, no? C'era questa sorta anche di... Però Rambo entra nell'immaginario definitivamente quando Reagan dice in un discorso pubblico dovremmo avere lo spirito di Rambo, e lì c'è lo sdoganamento, come si dice questo termine ormai usurato, però sì, entra nell'immaginario definitivo come... Luca, buongiorno. Buongiorno. Lei si sente Rambo, finalmente qualcuno che... Perché Rocky è facile, basta dare quattro cazzotti in giro, ma Rambo è un pochino più difficoltoso e articolato. Lei in che maniera si sente Rambo? Rambo nel momento in cui ti senti Mario Presso o soprattutto in una situazione dove vorresti spaccare tutto e fare da pagare a chi veramente commette ingiurie, commette soprusi, commette ingiustizie di continuo. Questo in senso anche più generalizzato, non nella mia persona, ma quante volte si vede in giro cose che non vanno e uno vorrebbe fare piazza pulita dei cattivi. Poi ci sono, diciamo, però ci sono una serie di film che rispondono meglio, Una giornata particolare, Giorno di ordinaria follia, perdonami. Sì. Rambo mantiene una sua pulizia interna, cioè lui non è il cattivo, lui, e lo fanno diventare cattivo. Cioè Rambo in sé non è quello che vuole, sì, provvede, uccidere o spaccare. L'aspetto coatto in tutto questo, che in realtà ci si possa recuperare l'attenzione e la centralità spaccando tutto. Questo è un pochino l'aspetto illusorio. Oggi l'uomo civilizzato dovrebbe dire ci arrivo attraverso altre strade. Lì è proprio la forza bruta e brutale. Quello sa fare, una macchina di distruzione e da sterminio, e quindi distrugge e stermina. Sì, Rambo arriva in questo paesino per trovare il suo commilitone morto e trova questi aguzzini, questi Brian Dennehy, la faccia mastinoide dello sceriffo, cioè è tutto eccessivo, la cattiveria anche con cui viene vessato deve appunto scatenare una vendetta, è chiaramente un motore di sceneggiatura elementare in questo, funziona come una macchina, ma è macchinica, è un golem Rambo di fatto. Un po'... Ma Rambo è il tipico coatto, quello lì che se soltanto lo sfiori comincia a dare di testa e spacca tutto, che sì. Come dice tenetemi, tenetemi, è quello che dai pugni pugni, che dai pugni sul muro finché non gli esce il sangue dalle mani, solo per spaventare. Quello che va in un locale e spacca i bottiglie e i bicchieri, non capisci perché, fingendosi ubriaco. Questo, ci fermiamo solo un istante, a dare la linea al traffico, poi continuiamo con Giuseppe Sansonna, con Rocky, con Rambo, con gli emuli, con gli avversatori e con le donne che non si fanno sentire, e potrebbero dire la loro, senz'altro, riportandoci alla nostra cruda realtà di uomini mitomani. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Noi stavamo in un granaio, arriva un ragazzino con la sua scatola dalla sua scarpa, entra e dice: io lucidare, prego, lucidare. Io ho detto di no, ma quello continuava a chiedere, e Gio ha detto di sì. Io sono andato a prendere un paio di birre. In quella scatola c'era l'esplosivo, e quando lui l'ha aperta, il suo corpo è volato in aria in tanti pezzi. Era steso lì e urlava come una bestia, io avevo i pezzi della sua carne maciullata addosso, ho dovuto tagliarmeli da solo. Insomma, io avevo i pezzi di carne del mio amico addosso, il sangue, tutto il resto. Cerco di rimetterlo insieme, ma le sue budella mi scappano sempre fuori. E nessuno mi aiuta. Certo, sentire la voce di Rambo piangente lo rivela la sua vera natura. In fondo è inutile che diciamo alle donne qual è il vostro mito maschile. Rocky nella sua elementarità rozza comunque qualcosa alzava, Adriana perlomeno, bene o male, quella se l'era presa. Ma su Rambo tacciamo per non voler infrangere i miti, ma Rambo non credo che avesse molta attitudine con il sesso femminile, questa sorta di pianto disperato da bambino con la voce coatta che raccatta il suo commilitone, chiaramente anche fidanzato, e ne raccoglie le budella, praticamente il coming out più esplicito che fa questo eroe. Soprattutto qui siamo nella luce soffusa del finale di Rambo, e si confessa al suo superiore diretto Trotman con questa voce piagnucolosa, stridula. Ricordiamo che in quegli anni Ferruccio Amendola spaziava da Dustin Hoffman a Thomas Milian a De Niro ad Al Pacino allo stesso Stallone, era la voce dell'America, la voce nelle varie declinazioni. Qui ci mette anche un po' di accento vagamente romanesco, romanesco, cioè Rambo che piange, Rambo che appunto accede a quel mondo. Andiamo avanti, oh, finalmente sono fatte vive. Paola, buongiorno. Buongiorno. Chi la tizza più? Chi la tizza più? Rocky o Rambo? Maschili e femminili. Risponda alla domanda: da chi è attizzata maggiormente, da Rocky o da Rambo? Guardi, assolutamente da Rocky, perché penso, diciamo, non ho la pretesa di riflettere tutto il mondo femminile, però penso che Rocky abbia una vena romantica che Rambo non ha. Cioè, Rambo è veramente un personaggio maschile a tutti gli effetti. Mentre Rocky è bruto, ma c'ha anche l'aspetto molto romantico che secondo me tocca il cuore delle donne di più. Quando accompagna Adriana che nella pista da pattinaggio, una scena bellissima. È bellissimo, e poi lei quando parla alle tartarughe. È una donna comune, cioè non è la modella. È anche un po' cozza, diciamo la verità, sì. Diciamo, lui come Pugge poteva anche ambire a qualcosa di esteticamente più elaborato, ma si accontenta di una donna comune proprio perché la ama, la desidera per ciò che è, non si ferma all'esterno. Questo è l'aspetto romantico, perché sarebbe stato molto più, diciamo, comune se avesse avuto la solita bellissima. Invece il fatto che è così, io lo trovo romanticissimo, e quindi tocca il cuore delle donne. Rambo, diciamo, dal punto di vista femminile più, diciamo, indifferente. Beh, si capisce che a lui le donne non interessano, questo è palese, mi sembra. Noi non, secondo me non siamo interessati, è un po' troppo brutto. Rossana, buongiorno. Buongiorno. Ah no, io volevo dire, sì, Rocky, a parte il discorso che ha detto la signora romantico, ma riesce, come si suol dire, dal cigno brutto farlo diventare bello. Questo secondo me... Cioè, oddio, il cigno rimane sempre brutto, lui lo vede bene. No, ma no, perché fa dei cambiamenti, quella donna io l'ho vista trasformata poi, la bellezza dell'amore. Perché finalmente ha trovato chi la toglie dal suo isolamento gelido e castità obbligata. Esatto. Io penso che il desiderio sia di prendere quelle canottiere sudate, quei pantaloni stazionati, quei calzini puzzolenti e lavarglieli, vero? Quella complicità dello stare poi insieme, oltre all'amore, queste premure per quest'uomo che non era nessuno, è diventato qualcuno. Comunque, poi la cosa che colpisce di più è la musica di questo film, che mi ricorda mio figlio, piccolo, insomma, ragazzetto, aveva trovato il suo primo lavoro e andava a lavorare correndo con la musica di... Era sfruttamento del lavoro minorile, quanti anni aveva? 15 anni. Ah, no, poverino. 15-16 anni così. No, ma correva felice verso il suo verso il lavoro, aguzzino. Sì, perché a lui è sempre piaciuto lavorare e non studiare, ora fa addirittura fa l'imbianchino per conto suo. Ah, però beh, all'epoca andava, cioè, a fare... I bianchini sono diventati uomini potentissimi, quindi spero per lui, speriamo. Comunque io ho diciamo questo ricordo di mio figlio ragazzetto che correva, appunto, come diceva la signorina che mi ha messo in attesa, verso questo posto di lavoro che si trovava ad attraversare, diciamo, tutti i banchi di... E correva come correva Rambo, uguale. E correva uguale e cantava, perché lui è un ragazzo, faceva ta ta ta, così era un uomo, sì, cantava. E lui un giorno mi disse: mamma, mi hanno lanciato davvero una mela. Andai, cioè, questo è una cosa da soddisfazione, questo. Melania, sì, ciao, buongiorno. Buongiorno. Io volevo spostare anch'io l'attenzione sulla figura femminile, perché in realtà Rocky, il film Rocky, secondo me ha dato una realizzazione piena alla figura della donna soccorritrice, e per me ha rovinato intere generazioni. Prima che arrivasse Marrazzo, dicendo che i veri accuditori sono i trans. La Croce Rossina, insomma, figura. Sì. La capacità di accudimento autorità dei trans, diceva l'ex governatore Marrazzo, è unica, non c'è donna che può competere. Testimone, ha detto a Concita De Gregori in una illuminante intervista. Quindi, diciamo, siamo in un'epoca ancora pre-Marrazzo in cui l'accudimento era affidato alle povere fanciulle non estremamente avvenenti, che, grate del fatto che il muscoloso eroe del ring rivolgesse loro attenzione, erano pronte, ecco, a lavargli i calzini, a pulirgli la canottiera, a fargli qualunque cosa, a essere tappetino per lui. Sì, ma sociologicamente secondo me è stata proprio una tragedia, perché ha proprio dato autorità a questo tipo di donna, e quindi questo è... Va bene, le do un'occasione di sogno, allora, le do un'occasione di sogno. Quando sono venuto qui non sapevo cosa mi aspettava. Ho visto che molta gente mi odiava e io non sapevo come la dovevo prendere. Poi ho capito che neanche voi mi piacevate, ma durante questo incontro ho visto cambiare le cose, cioè quello che provavate per me e quello che io provavo per voi. Я почувствовал, что вы тоже изменились. Sul ring eravamo in due disposti. Giuseppe, siamo arrivati proprio alla fine. Io più sento il doppiaggio senza vedere le immagini, che in fondo sono quelle più hanno colpito, più mi rendo conto che dell'improbabilità di questo mito nell'animo femminile. Però probabilmente, perché le donne sono generose, amano lo sfigato. A sentire la voce di Rocky che parla al popolo russo, che finalmente ha vinto la sua battaglia, viene a pensare che c'è spazio per tutti. Sì, qui aveva risolto da solo la guerra fredda, appunto, cancellando Ivan Drago, la macchina bionica dell'est. Ti spiazzo in due, quello lì. Ti spiazzo in due. Ci sentiamo domani, grazie Sansonna, grazie professor Chiappini, grazie Fabrizio Intonti. Alors tous deux on est partis dans le tourbillon de la vie, on a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.